questo qua, Comane. Dove sei io? Bobonio. Antonio, la buona. Sono da pure con me. Cazzo, sta arrivando forte. Lo so, sono da pure con me, sono da prendere l'antenna. Le TV. Cazzo. Guarda, e con chi sei? Con Antonio Grotta. Guarda, le migliori che ho provato, cioè, fino adesso, secondo me, sono quelle che costruiva il povero Vittorio Fusaro. Aspetta da Tibino. E so. No. Ah. E so. Ti ho capito, dimmi. E adesso? E so. E K. Ho detto, io la migliore che ho provato ultimamente è quella che costruiva Fusaro, te le ricordi? Sì, quella già me la ricordo, gli altri. A voi. E costruiva lui. L'unica cosa che si tentava l'acqua dentro dove c'è l'arancio dei cavi, come è successo a me. Parte digitali e dopo un anno è entrata l'acqua dentro. Infatti sono tutte e due, sono massi, tutti e due, sia una sia l'altra. Una ci ho messo la fine di pesce per il primo adesso, perché non funzionava. E la seconda adesso devo comprarla nuova, adesso li metterò una antenna, cosa ne so. Ma io invece, quando ho sempre comprato da loro, sono sempre andate bene, non mi ha mai dato noia. Meglio così. Fatto che l'altro si è trovato in cappettato, cazzo. Ha messo l'antenna del secondo, adesso invece il primo l'ho trasferito in VHF, quindi i primi tre canali, anzi quattro sono, non li vede. Ha detto Natalino se c'hai un pezzo di paletto da... Per entrare nella pipetta per attaccare l'altra antenna, da 50 cm, 60, una cosa del genere, anche un pezzo. Mi pare che non ne ho. Dovrei controllare, ma mi pare che non nasce. Un pezzettino di tubo, cazzo. E che non è alta, io non so, non neanche la prima come c'era. Prima li vendevano i singoli, quelli fini, adesso sono tutti quanti grossi, insomma. Cazzo. E cosa avete fatto di lavoretto? Ancora a fare il lavoretto, abbiamo pigliato solo l'antenna, adesso dobbiamo cercare un pezzo di faro e piazzare una e l'altra, tutti e due. Ma dovete montare? La televisione. Ma anche con il baracchino? E anche con il baracchino c'è, piccolina là. Io avevo detto a Natalino di prendersi quei pali leggeri e ne stanno uno dopo l'altro ci si pure da terra. Ma non ce n'è palo leggero la piccola, è bello quello, se c'era un palo di quelli grossi per parabola è il tiro buono. È lo stesso diametro della pipetta, è stato un pochino più stretto, è stato quanto. Affa. Allora dove puoi andare? Da Cipata? Fatta. Ho visto qualcosa e ce li hanno da Cipata. Abbiamo parlato. Attenzione 10, attenzione 10. Ciao Anton, ma chi è che sta parlando? Sento una donna. Può essere la solita russa che si sente in sottofondo, ma tutta era lì, non adesso. Vabbè, tutto bene Anton? Tutto bene, tutto bene. Ma capito, buon, mica l'ho visto lì da Cipata anche. Fino a poco tempo fa c'erano, lo sapete dove è? Cosa? Dicendo a Pompugno, se lo sanno dove è Cipata. Oh. Dimmi. Le stai chiedendo, cosa stai chiedendo a Pompugno? A Pompugno adesso. Ti stavo dicendo, siccome c'ho l'apparato che non ha una buona cassa, ti stavo dicendo, Cipata è strada 11 Predanietta, è presente dove sono le poste a Predanietta? Dove? Loro che non so se lo sanno. Ah, gli stavi dicendo dove andare, ho capito. Ma li ho visti lì da Cipata, li ho visti anche. Addirittura per pure tu pure la mano. Di quelli che ti piace, addirittura, ho visto. parte che si adighisse, non risponde più. Ti devo separare, ho capito, lui è l'antenna. La senti la russa, fagli la dichiarazione che te la sposi anche. E viene qua. Il pelo nella gamba. Devi sentire i peli a questa russa, fagli sentire i peli. Sì, pomponio. E posso trovare se sono. Quindi da stanotte sei lì. Ah? Ma ti ho sentito che c'era passato un po' di quel rem di canna che te venga. No, ti stavo dicendo, se sei fermo lì da stanotte in viale Porto Torres. Ehi, sto partendo in marciapiede, non sai che ci fai da Lubumbo sopra il ponte. E dopo di sotto c'è la ferrovia. Dove vai, ti fa proprio più oggi. Ma poi che c'era italiana, tu? Negativo, avanti la mica. Russia, russa. Sempre russa. Ai ai ai. Oh, gli è mala sorte. Allora, mi senti bene con questo, sì? Considerando che sono QTH Rockefeller, sì. Cappa, dai, sono quello piccolo, sono già è sufficiente. 4 watt. Gli è stato ascoltando. Lo sai che arriva leggermente più forte di te? Chi è questo? Come si chiama il tuo amico? Sberla. Sberla. Arriva più forte di me. Poco ci credo, Quasi un tantino. Ti senti tu sotto, di un tantino, c'è appena di più. No, questo, tu stai dicendo quando QTH Rockefeller o QTH dall'altra parte? Di sera, non vedi. Di sera, non qua. Non state modulando dal tuo QTH. Negativo, stava arrivando più forte. Leggermente. Perché io la stazione la faccio bene. Gaffa. Leggermente. Ma cosa la fate a pari fatte ieri sera? Gaffa, ma io sono molto più vicino a te, ero molto più vicino a te. Evidentemente con l'antenna c'è stazionaria, capito? La devo controllare. A lui gliel'ho piazzata davvero molto molto bene, nel senso che gliel'ho rosmettrata bene, quindi è per quello che stavo uscendo con tutto in antenna. A cappa, allora sto facendo un po' più forte di te per quello. È possibile, sai che quando esci con tutti i watt sicuramente riesci a farli uscire con tutti in antenna, non ti rimane niente dentro, e quindi sì, evidentemente stanno sfruttando tutti i watt. Tu via troppo lì. Là, come ce l'hai messa? Hola, è un attimino da sistemare, è una questione di rosmetro. Chi è che ha chiamato Grolle? Avanti, Gambiu. Buongiorno, buona domenica, signor Antonio. Doninu, e allora, tutto bene? Se sai da fare chi è, non so cosa attacca che non ci si vende. Bene, non ho problema. Sta piovendo fino a 5 minuti fa, adesso sta uscendo il sole, almeno qua a zona Piazza Italia si sta aprendo la giornata, dai. Qua ho terminato lo stesso, 5-6 minuti fa. Perugia, sei in compagnia mia di Antonio Bombolo e di Antonello Pomponio che è in barra mobile, che non si sa dove stai andando. E a Bombolo non lo sento per niente, non so se lui mi ascolta. Caffa, allora prova a piazzare la Farras e vedere un po' come arrivo, Caffato, no, già si intende, Tonino, non so se l'hai sentito, non c'è problema. No, io lì devo mettere un palo un attimino più alto per vedere un attimino se riesco a superare una casetta di ascensore e vedere se irradia meglio, dai. Ci dice in bilda, Tonino. Comunque a Bombo non lo sento per niente. Che ha un po' un'antenna sacrificata, capito, per quello che non riesci a tirarlo fuori. Mentre invece con questo baracchino qua piccolino come sta andando? Santiago Nuovo Radio 5. Non so come tu mi ascolti a mio lì. Anche se ti sento non un'alternata, però un rumore strano in sottofondo, ma stai mettendo c'è qualcosa sotto. Non mi sentite? Sì, Tony, riesci a tirarlo fuori adesso, Bombolo, che ha cambiato apparato? negativo, non lo sento per niente. C'è una qua sta facendo un parecchio casino. C'è questa russa, Antonino, non so se la senti, che sta entrando parecchio qua. Sì, io l'ascolto, Santiago Novo, Radio 5, la russa. Figurati, figurati. Io vorrei sapere con quanti watt stanno uscendo. Io sto andando con 5 watt, poi non so tu come stanno, con quanti watt stai andando. Quanti watt sta andando la russa, intendo, perché qua sta arrivando la stessa bomba. Sentite, Santiago Novo, Radio 5. Quelli attaccano e basta, no, non ne ha butti nulla. Però c'è il bombolo, e purtroppo sei un pochettino più basso, quindi ti frega per quello, capito? Comunque qua stai arrivando molto bene, non c'è problema. Scusatemi un attimino, 5 minuti di bianco per me che sto avvitando un capo un attimino. Capo, dai, vai. Vai, non c'è nessun problema. Gigi, ben sentito, anche se non lo posso dire realmente perché c'è un QRM molto alto e forse tu sei basso perché non c'è niente dentro causa supermercato. Guarda, il canale 500 Maria parlando, ma non ho problemi, ti ascolto lo stesso. È abbastanza selettivo questa radio, dai. Aspetta Bombolo, che c'è sotto Vulcano un attimino che non sta uscendo con tanti watt, l'hai un attimino schiacciato, avanti Gigi. Positivo, no, oggi ho scusato ragazzi, no, so watt zero e state un pochettino, ma perché così tanti problemi crei? Sì, non mi piace, non succede niente perché. Però chi c'è nel supermercato sente la mia voce, capisci? A me non mi fa bene, dai, no? Perché poi non dico, ma ti sentivo parlare, se ti state dicendo quell'altro, capisci? Non è che c'è niente con il supermercato, il supermercato è un tipo di cose sporche, però non mi va a me di farmi sentire lento. E comunque Gigi, evidentemente qualche problema ce l'hanno lì nello stadio di amplificazione della diffusione, capito, del supermercato. È un problema che dovrebbero iniziare a risolversi. Ma comunque saluto Gigi Vulcano, eh. Ciao, buongiorno. No, tu, va bene. Sì. No, però non mi fa a me che mi sentano parlare, dire, sentendo delle interrompo la loro comunicazione dentro io, capito? Che bello! vabbè, dai, si fa per questo vivere, se no uno continua a fare quello che sta facendo. Già capisco, dai! C'è un casino di QRM, ma stasera già aumento un po', dai, stasera aumentiamo un pochettino se c'è qualcuno. Magari, Antonio. Dimmi. Cavolo, lo stavo andando a stare lavando Gigi Vulcano, Santiago 5 con un ratto. Cavolo, già lo sento lo stesso, me lo sta crepando un po'. Giù Maria che è sul 5. Però a te ti sento bene, non ho problemi. Giù più basso, un pochettino mi dà fastidio. Però già non può fare altro, ma già va bene lo stesso, dai. Gava, assolutamente sì, più che bene. Ciao, Antonio. Tu ci sei? Ragazzi, io vi saluto, dai, se ci siete faccio sentire stasera, dai, c'è troppo QRM. Gigi, ma non sali su al quadrato? Capito. Sali su al quadrato? Non si sa, non è un Puglia, è una giornata, non è neanche bella, dai. Gigi, ci sentiamo stasera. stasera se coincide. Un attimino, sempre in quel Rix, permetti di lancio bombolo se ti è accoppiata. Avanti bombolo. Tonino, ci sei sempre? Questo momento è andato sul 5, è andato con Gio Maria. Scappa. Sì, ok, Gigi Vulca, non c'è nessun problema, ho copiato tutto col passaggio, eh. Ok, ce la risentiamo. Anche tu stai facendo cosa, no? È positivo. Comunque, Grotte, se ci sono portate delle belle ragazze, sarebbe partito a mille da tua parte, come tu lo vuoi. Cambia sopra. Piatto hai, Gro. Brava. Ma vedi che subito vi vedete, meglio niente, guarda. Lasciamo perdere. Fantasia, se no no, si intasa sul tubo e più. Poi, secondo come mette sulle volte, sul tubo so, si intasa più sempre i muri, invece se sul tubo tiene se dritto, so, non si viene a intasare che facilmente, capito? No, se diretto sul tubo non si intasa, ma per abbatto uno che cresce di 90 centimetri che cresce sul muro, è del parallelo, io Marì, se vuoi dire questo non lo prendevo per qua. Il morto aveva la intro da allora, che sta con il fazzolino, lo volo, attacco loro e disapposto come un dice, e così l'altro giorno che si incasa, va bene? Adesso tutto quanto è detto. Ah, ecco. Ripeto, infatti, lo devo dare dritto sul tubo, però dritto. No, una cuffia bella io, ma la sorte sta cuffia lì come si sta sei, dopo una chita cazza, se vi ha proposto di montare la pulita, perché se no mi si affumo me, ragazzi. Se qui no, la capo me non so, non sono in 30 di un male, sono 320. Però non sono qui cosa, non ha per integrato, sono non ha per integrato, sì, però sarà più si fiato, l'ho preso a. Questo esatto che si rompono fra gli altri negozi, che sono appiccicciato a tutto, invece qui c'è tutta tanta bella riga, se non sattera, una cosa mai la pagava, e pare che la pagava 40 euro su, a me. Ha detto che a me la cosa. Sono tutto sotto un posto, non vanno mai fine, io Mario, ho preso qua. E poi a posto l'anno, tra cui cosa? E sotto posto interno, so. E guarda che bella cosa, 300 che mancano da franco, so. Ia, ia. Tony, mi assento che mi è venuto, dai, un attimino, dai. Se il binese, già diciamo. Bene, buona. Abisese. А, точно, 24. Già, non ci manco una pechina, infatti è sbagliato uno, quindi mi pare che ce la salleava tutto, ce la salleava. Senti, Bruce, una cazzo di Luciana che costa una... 300-400 di Bruce, mi. Sì, posso immaginare, no? No, questo dai mele che non fatto, farebbe l'unico macchino esse, che abito prima, la poi vi dico a casa di affetta. Però da voi ha cambiato e non dico né che, cioè, prima andai a coso, quando vi risalzi il briccio. Hai qua per me a meta, però un punto ne hanno fatto, come invece è di noi, Pedranieta, e non dico macchino esse, capito? Come lui dice Pedranieta, quando era su Maccato, io morì. Gira la a sinistra e figura primo. Come invece, girano sempre se mandasi via, su con seretto e la gatta da sinistra. Prima mi la treccia, come una gatta da a sinistra e la gatta, ogni tanto capannone vanno io marica, ma cosa una, cosa prima e cosa seconda mano, vite. Proprio prendo proprio mentre sono, cazzo ma cucina di un marica su che tu mi manti quello caso. Cucinando amica. Pensa che cosa, sa, io devo legare l'idea, ma cazzo, senti lo capire che... Ma con il furbando? No, ma vedi fi pieno, pieno, pieno, pieno, vedi poi questa avventura e fasciatura, se vedi questo caso componente di anno, se componente da bandino, se componente da tale, se non ti metti questo che se... Cosa ci ha comprato? La cucina, la tanta componibile io marì. E guarda che lo sai io, tutta canta completa, e guarda che vedi, che mi chiedo sei grosso. Completa lavandino, lavatoviglie, frigorifero, pensile, banca, caprea, c'è un preso. Che mi chiedo sei grosso? Che mi chiedo sei grosso, nuova, nuova, nuova, nuova. Oh, questa figlia di Giacomo Bini, che? Pensa che cosa devo comprare, sì, che? Ripeto, non bisogna mai andare a nessuno, ma anche lì è ma vicino, mi faccio un brinco, dai, l'altro poi se più o meno in teba, capito? Questa gianna si è sommato su quattro alleato su questa terra componibile, si è comprato la gianna. A poi la sabbia si sono vere pure, aspetta le altre, sono belle, belle nuove. Cazzo, 100 euro l'una, tutto l'altro alleato. O per ammossa sa. Completa, compresa, completa, ne controllerai pure. Se lo batterai a Gianna, sa, dove chi, non è merito, cioè. Ok, vabbè, cioè. Poi, ma un me l'ha nato, che qualcosa a me, me l'ha nato, però non devi venire mai abbi passare, ecco. Però, come devi passare, a fare un brinco, l'altro poi se su per giù potrai pure a che cosa ti vuole interessare, capite? E così via. Poi non è che mandiamo qualche via. Stai anno io marini, uno è su dell'asso e sei anno, se vuoi mettere sei anno. Sante la sopra morta che attacca su dell'asso. Compreso Marzo? Sono due cose. Per forza, sono due cose sì. Senti, se ho messo l'asso, come ti fai a attaccare sei anno? È normale, no? Certo. Adesso vedi che sono due cose, sa? La prima attacca sopra la mossa, attacca, la avrai casa al muro e tutto l'altro. Poi le assaianna completa del raso e te la via, sai, via sopra la mossa. Non te la raso solo, sono due cose. Una sopra la mossa che attacca sopra l'asso e invece attacca la assaianna. Mi chiede questo per cosa? Completa di tutto, 100 euro l'una, 99. E poi, oh, noi che mi interessa, la gente che fa la vita, abita come c'è su me. No, ma va, ecco che vanno io a roba una, ecco che vanno io a roba una, capito? Che la prima pure la pia è semplice, quando vedi sta semplice che è roba nuova, nuova veramente. E con due soldi ho capito, si riesce a dare tutto. Ehi, ok, un attimo che devo girare una questione, Tony. E io ti credo vorrei che mi metta due uova che mi era giusto, che hanno sentito chiamare più sattato magari. No, d'accordo, Torino, buon procedimento e buon prato, vai. Ciao, già hanno sentito. Ok, ciao.